Effetto giorno di Simone Spezia. Il Nobel all'americano Thaler, tra i pionieri dell'economia comportamentale. Aveva combattuto in Siria, l'uomo arrestato ieri a Ferrara, fratello dell'attentatore di Marsiglia. Collisione tra una nave militare e un barcone di migranti partito dalla Tunisia. Almeno 8 vittime. Il va sciopero contro il piano che prevede 4.000 esuberi, in corso l'incontro al Ministero. Domani il presidente catalano rivelerà i suoi piani e Madrid minaccia, se indipendenza, reagire. L'Italia questa sera la prova contro l'Albania, dopo la delusione contro la Macedonia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Oggi abbiamo in assistenza in redazione Laura Faggini, in regia per la parte tecnica Paolo Corleoni. Iniziamo dunque questa giornata, questo lunedì, come da tradizione, il Nobel per l'economia assegnato appunto ad un economista che si occupa anche di comportamento umano, che ha intrecciato psicologia ed economia. Livia Zancaner, buongiorno. Buongiorno Simone, come sentite l'annuncio arrivato questa mattina dall'Accademia Reale delle Scienze di Svezia? Il premio Nobel per l'economia alla 49esima edizione è stato assegnato allo statunitense Richard Thaler per i suoi studi sulla comprensione della psicologia economica. Thaler, 45 anni, una cattedra all'Università di Chicago, ha inserito ipotesi psicologicamente realistiche nelle analisi del processo decisionale economico, si legge nella motivazione dell'Accademia. In sostanza, Thaler ha evidenziato come l'economia classica non si basi su un equilibrio perfetto, perché le decisioni del consumatore non sono sempre razionali e informate. E sentiamo proprio su questo punto il commento di Barbara Alemanni dell'Università di Genova. Richard Thaler è stato il primo vero economista a dialogare con gli psicologi cognitivi Kahneman e Tversky, che hanno, dal punto di vista della psicologia, diciamo, impostato la scienza comportamentale e quindi il traghettatore economico di questa disciplina. Thaler, da Chicago, comincia a metà degli anni Ottanta a trasformare questi ragionamenti psicologici in ragionamenti economici veri e propri. Il primo soggetto a usare la lingua economica in ottica strettamente comportamentale. Quindi razionalità limitata, preferenze sociali e mancanza di autocontrollo sono tratti umani caratteristici e influenzano sistematicamente le decisioni individuali e gli esiti del mercato, dice Thaler. L'economista è stato definito un pioniere nell'integrazione di psicologia ed economia, che ha reso l'economia più umana. Ed è tutto. E grazie a Livia Zancaner per questo aggiornamento. Veniamo alla conferenza stampa della Procura di Roma sull'arresto di Anis Hanaci, fratello dell'attentatore di Marsiglia. Un'operazione che è stata definita importantissima dagli inquirenti e che in realtà è tuttora in corso. Sentiamo. La prima traccia certa della presenza in Italia di Anis rimonta al 4 ottobre. Dove si trovasse nei giorni precedenti, l'indagine ce lo dirà. È Claudio Galzerano, direttore del servizio antiterrorismo, a spiegare quello che gli investigatori possono dire su Anis Hanaci, l'ultimo dei fratelli di Ahmed Hanaci, il tunisino ucciso dalla polizia francese dopo aver accoltellato a morte due donne a Marsiglia due settimane fa. Il 4 ottobre Anis era in Liguria, poi si è spostato in Romagna. Sabato scorso a Ferrara è stato fermato con un pretesto e ha fornito generalità false. Per le autorità francesi ha combattuto tra i foreign fighters in Siria ed è per questo che l'ipotesi degli inquirenti transalpini è che sia stato proprio Anis a indottrinare e provocare la radicalizzazione del fratello Ahmed. Anis era stato respinto in quanto irregolare nel 2014 dopo essere sbarcato a Favignana. Nello stesso anno suo fratello Ahmed si separava dalla moglie italiana, matrimonio grazie al quale aveva ottenuto un permesso di soggiorno. Al momento non ci sono evidenze che Anis stesse pianificando attacchi nel nostro paese, né sono emersi elementi che possano far ritenere che il tunisino avesse solidi appoggi a Ferrara o basi altrove in Italia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque l'avete sentito, espulso nel 2014 e ritornato in Italia. Vedremo che cosa ci diranno successivamente le indagini. Intanto restiamo anche sul tema dell'immigrazione per quello che è avvenuto al largo della Tunisia. Non è ancora chiaro cosa è avvenuto a largo di Malta questa notte, quando una nave militare tunisina ha speronato una barca a bordo della quale vi erano una settantina di migranti, che sono finiti in acqua. Nell'incidente, secondo quanto si apprende, sarebbero morti 8 migranti ed alcuni sarebbero dispersi. La maggior parte delle persone che erano a bordo sono state però tratte in salvo. In seguito alla collisione, la barca con a bordo i migranti è affondata. I soccorsi sono stati tempestivi e numerose persone finite in acqua sono state tratte in salvo. A coordinare i soccorsi le autorità di Malta, con il supporto di alcune unità navali italiane, due motovedette della Guardia Costiera salpate da Lampedusa, una motovedetta della Guardia di Finanza e una nave della Marina Militare. Dopo la stretta in Libia, la Tunisia è diventata una delle nuove rotte predilette dai migranti per arrivare in Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'Ilva, mentre si apre il confronto col governo, i lavoratori protestano contro l'ipotesi di riduzioni massicce del personale. Andiamo innanzitutto all'incontro, appunto, che si sta svolgendo a Roma e poi andremo a sentire cosa succede in piazza, e andiamo da Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone, il tavolo sull'Ilva è in corso da poco meno di un'ora al Ministero dello Sviluppo Economico. Al centro del confronto c'è il piano proposto dall'acquirente, il gruppo franco-indiano AM Investco, che prevede 4.000 esuberi in tutta Italia, ma la novità che è emersa negli ultimi giorni è che questo piano prevede anche che i lavoratori che resteranno nel gruppo siderurgico dovranno essere riassunti con il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act, perdendo quindi le tutele dell'articolo 18, ma anche l'anzianità aziendale e il trattamento economico di cui godono attualmente. Il governo ha assicurato dal canto suo che non lascerà senza sostegno nessun lavoratore in esubero. Il piano è inaccettabile, sostengono invece i sindacati, che per oggi hanno proclamato questo sciopero di 24 ore che sta avendo adesioni molto alte in tutti gli stabilimenti Ilva, da Genova a Taranto. Per ora dal Ministero è tutto. Grazie dunque ad Andrea Viali, e spostiamoci proprio a Taranto per un aggiornamento sulle manifestazioni di questa mattina. Domenico Palmiotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A Taranto lo sciopero è cominciato questa mattina alle 7, uno sciopero appunto che registra una percentuale molto alta, dicono i sindacati, in tutto lo stabilimento siderurgico, ditte dell'indotto compreso. Uno sciopero che ha portato i lavoratori dell'acciaieria 2, che erano di comandata, non presentarsi, e la comandata viene appunto predisposta per consentire che l'impianto funzioni in regime di sicurezza, e questo, asseriscono i sindacati, ha poi spinto l'Ilva, non essendoci appunto la comandata, a fermare del tutto l'acciaieria 2. La protesta è molto forte. Taranto dovrebbe ricevere 3.300 esuberi sui 4.000 totali, quindi questo fa capire come il problema è molto sentito, ma la città protesta anche per il piano ambientale che, sebbene non costituisca oggetto della trattativa di oggi, è criticato dalla città per i ritardi e per il tipo di soluzioni prospettate. Stamattina ai presidi, ad uno dei presidi, quello davanti al tubificio, è andato anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha portato la vicinanza dell'amministrazione comunale. Il sindaco di Taranto dice al governo e dice anche ad ArcelorMittal e a Marcegaglia: non è comprimendo i diritti dei lavoratori che può vincersi una battaglia così difficile e complessa come il risanamento ambientale dell'Ilva e il suo rilancio industriale. È tutto da Taranto, a voi studio. Grazie dunque anche a Domenico Palmiotti. Spostiamoci adesso in Catalogna. La giornata di domani è quella nella quale si dovrebbe sciogliere qualche nodo sulle prossime mosse del governo di Barcellona. Mario Magaró, da Barcellona appunto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Oggi sì, è una giornata di vigilia sull'asse Barcellona-Madrid, la tensione è fississima, anche considerando l'eco della manifestazione di ieri a Barcellona, dove i migliaia sono riversati nelle strade del centro a favore dell'unità nazionale. Questa mattina però l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica nazionale si riferisce alle dichiarazioni fatte dal presidente catalano Puigdemont ieri sera a TV3, che è la televisione pubblica catalana. Puigdemont ha detto chiaramente, in relazione al suo intervento di domani, previsto per domani nel Parlamento catalano, che la dichiarazione di indipendenza è prevista nella legge del referendum e quindi si applicheranno i risultati, applicheremo la legge. Non ha chiarito se sarà ufficiale domani la dichiarazione di indipendenza, ma Puigdemont non retrocede, rimane sui suoi passi. Stamattina è intervenuta durissima rispetto a Soraya Sáenz de Santamaría, il numero 2 del governo spagnolo, che ha detto chiaramente che un'eventuale dichiarazione unilaterale di dipendenza comporterà una risposta immediata da parte del governo spagnolo, senza però chiarire se questo se da parte del governo spagnolo si applicherà l'articolo 155 della Costituzione, questo articolo contestatissimo, sì, che prevederebbe una sospensione, sì, dell'autonomia della Catalogna e la convocazione di nuove elezioni regionali. Un articolo che non è mai stato approvato fino ad ora, o meglio, a cui non è mai, si è mai, che stato, non è mai stato applicato, insomma, sì, esattamente, in Spagna fino ad oggi, e che forse in questo caso potrebbe essere applicato. Ti ringrazio, grazie a Mario Magarò per questo aggiornamento. Siamo alla cronaca italiana, soprattutto da Roma. Una vicenda innanzitutto nella quale un uomo di 32 anni, romano, ha rischiato il linciaggio a Torbella Monaca, alla periferia di Roma, perché aveva assunto stupefacenti, ha investito due ragazzi di 16 e 17 anni che per fortuna non sono in gravi condizioni, e appunto è stato aggredito, è stato preso a calci e pugni da alcuni abitanti ed è stato salvato dai carabinieri. E sempre a Roma la vicenda del ragazzo di 17 anni trovato in fin di vita sabato mattina a Roma dopo una serata in discoteca. Ci sono degli indagati. Quattro giovani sono indagati per lesioni gravissime. Sarebbero stati loro a picchiare il ragazzo, che ora si trova ricoverato in rianimazione. Ma quanto successo nella notte fra venerdì e sabato fuori dal locale Room 26 a Roma è ancora tutto da chiarire. Gli investigatori hanno identificato 10 ragazzi, fra loro anche qualche ragazza, minorenni o da poco maggiorenni. Hanno raccontato di una rissa fra comitive contrapposte per futili motivi, forse per una ragazza, forse per un drink. Poi il 17enne è scappato, forse perché inseguito da chi l'aveva picchiato, forse anche da qualche amico che poi però ne ha perso le tracce. Quindi un vuoto di 10 ore, con i genitori disperati alla ricerca del figlio per le strade di Roma, con messaggi lanciati anche sui social network. E poi sabato mattina il ritrovamento da parte di un sorvegliante, oltre la recinzione del parcheggio della celebre Nuvola di Fuxas. Una telecamera lo avrebbe ripreso sulla rampa all'interno. Interno. Sarà importante ora capire se le lesioni gravi siano dovute al pestaggio oppure se il ragazzo se le sia procurate durante la caduta oltre la recinzione. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infiliamoci per un attimo nel tunnel delle divisioni della sinistra, il punto politico di oggi. La sinistra si divide un'altra volta. Giuliano Pisapia torna sulle divergenze con MDP, mi pare, dice il leader di Centro Progressista, che si sia allontanato dal progetto iniziale, che era e resta quello di costruire una forza aperta e ragionevole. Con Matteo Renzi si deve parlare. Voglio che sia il centro-sinistra a governare. Se Roberto Speranza non aspetta, buon viaggio al suo partitino. E dagli ex Dem arrivano dure repliche all'ex sindaco di Milano. Per Speranza ormai sembra il gioco delle figurine, quando invece si dovrebbe discutere di merito. Più conciliante nei toni Alfredo Dattorre. Mi pare che le prime risposte di Sinistra Italiana è possibile siano molto positive, incoraggianti. Io mi auguro ancora che ci sia lo spazio di un ripensamento da parte di Giuliano Pisapia. Tutto vogliamo fare tranne che un partitino. Abbiamo rispetto per le piccole formazioni politiche come quelle in cui lui ha militato in tutta la vita, ma vogliamo costruire una grande forza popolare di governo. E nel giorno in cui il PD compie 10 anni si contano i partiti a sinistra tra Satelliti e Meteore, Sinistra Italiana, Campo Progressista, MDP, possibile di Pippo Civati, Alleanza Popolare per la Democrazia, promotore del no al referendum, Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E speriamo invece che ritrovi compattezza, per così dire, la nostra nazionale, che questa sera affronta l'Albania dopo una prestazione, Carlo Genta, quella contro la Macedonia, francamente imbarazzante. Sì, molto più che imbarazzante, sei stato generoso. Più che compattezza speriamo che trovi il risultato, perché alla fine, in questo momento così difficile, è l'unica cosa che conta. Si gioca in Albania appunto alle 20:45, l'Italia deve vincere per... un allunaggio un po' più morbido nei playoff che portano ai mondiali, per essere certa della prima fascia di merito e quindi avere un avversario un po' più un po' meno difficile rispetto a quella che si avrebbe in caso contrario. È evidente che stiamo per ottenere il minimo risultato con il massimo sforzo, perché è un'Italia che si è consumata strada facendo dopo la sconfitta con la Spagna, anche in mille polemiche e divisioni. Ormai non è più un mistero quella riunione tra i senatori, non la presenza di Ventura, Per il commissario tecnico è un momento estremamente complicato, è in discussione da tutte le parti, salvo che dai vertici della Federcalcio, però è altrettanto evidente che in caso di mancata qualificazione la sua avventura finirebbe. Invece, se si va ai mondiali, come tutti speriamo, poi lì si vedrà. È chiaro che è un mondiale che rischia di perdere per strada delle squadre che dovrebbero essere partecipate di diritto. L'Argentina di Messi rischia, il Portogallo di Cristiano Ronaldo più o meno nella nostra stessa situazione, pur essendo campione d'Europa, e l'Italia è lì che è appesa al filo della vittoria con l'Albania per poi passare attraverso le forche caudine dei playoff. Un prepartita che è ottimo materiale per tutti i convocati. A partire dalle 14 ti ritroviamo là. Dunque, Carlo, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Giro d'Italia che iniziamo parlando di immigrazione, perché il ministro Minniti è tornato a ribadire: il mio piano prevede uno svuotamento dei grandi centri, un'accoglienza più diffusa. Se ne è parlato tanto, se ne parla da mesi, e intanto a Cona, lo sapete, è una nostra fissazione, a Cona la situazione è sempre la stessa. 2000 persone ammassate all'interno di una specie di casermone in una situazione terribile anche per loro, oltre che per i cittadini della zona. Tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook di Radio 24 dalla quale andiamo in diretta video. Se volete potete commentare anche là. Torna da noi Alberto Panfilio, sindaco di Cona. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Il tema è sempre quello. Abbiamo sentito nei mesi scorsi il ministro Minniti dire che vuole cambiare il sistema di accoglienza. Sentiamo un passaggio breve di quello che ha detto. La mia idea in testa è di parlare di piccoli numeri. Io proporrò che ci sia non soltanto una struttura di governance trasparente, ma che ci sia un potere esterno per quanto riguarda le condizioni di vita dentro quei centri, che sono appunto centri nelle quali bisogna sempre mantenere un livello molto alto di dignità della persona. Così il ministro Minniti, che parlava in questo modo poco dopo quello che era avvenuto proprio a Cona, la rivolta dei migranti all'interno di questo centro che non è nemmeno un vero e proprio centro di accoglienza, ma di fatto una sorta di punto di raccolta, e vostro ovviamente è il comune che lo ospita. È un luogo nel quale siamo andati spesso con Effetto Giorno nel nostro Giro d'Italia e nel quale torniamo oggi perché ci sembra di capire, sindaco, che poco sia cambiato nei mesi. Allora, non è cambiato assolutamente nulla, e ancora una volta io voglio specificare che questo benedetto centro di accoglienza è una tendopoli, è una vergognosa tendopoli che ha ospitato migliaia e migliaia di richiedenti asilo in condizioni di piena inciviltà. Ma questo io lo sento, lo vedo da oltre 2 anni. Ho sentito troppe volte promesse del tutto disattese e si continua anche in questi giorni a investire denaro pubblico nella tendopoli costruendo nuovi capannoni, sottolineo capannoni, per poterli utilizzare da magazzino a causa dell'incapacità di gestire il fenomeno. Certo. Ma quante persone sono ospitate al momento a Cona? Al rappresentante delle istituzioni locali non viene comunicato, però mi sembra che siano intorno alle 1200. 1200 persone. Ricordiamo, in un posto che nemmeno era deputato all'accoglienza di esseri umani, intendo questo, che nel momento nel quale uno accoglie delle persone, per esempio in una caserma, sa che ci sono le camerate, quindi un certo numero di letti, e può dire, non lo so, ci sono 1200 persone e per una capienza di 800. Qua invece parliamo proprio di un posto che non era nemmeno deputato all'accoglienza. No, non sono nemmeno, sono stati tolti i cartelli che indicano che era una zona ancora non bonificata. Lì sotto c'erano i missili. Cosa c'è là sotto? c'erano i missili, c'erano quella i base missili. Lì ospitava circa 50 unità in una piccola caserma, ma tutto questo a terreno era adibito appunto a sedi di missili terra-aria. E ricordo quindi ai primi giorni quei cartelli in cui si diceva appunto pericolo zona non bonificata, non hanno fatto altro che togliere i cartelli. Sindaco, qua dice, qua ci chiede qualche ascoltatore, ma per il sindaco era tutto ok con Alfano? No, non mi sembra, cioè non mi sembra il problema sia né Minniti né Alfano né nemmeno il colore politico del governo, no? È proprio una questione della situazione che c'è nel comune che lei amministra. Beh, è stata fatta una scelta che si utilizza quando si decide di fare le discariche. Dunque, qual è il danno collaterale in termini di voti? Tutto qua. Hanno scelto un luogo in cui le perdite sarebbero state esigue. Punto. Questa è stata la loro logica. Per chi qui in giro caserme ce ne sono, se le volevano adoperare. Ma proprio il ministro Alfano si è opposto, dopo una segnalazione di un sindaco di un centro più grosso del mio, eccetera, eccetera. Questo loro si preoccupano solo di danni collaterali. Ma segnali non avete ricevuti di persone che sono state portate via da quella zona, distribuite in altre zone del territorio italiano, oppure no? Perché appunto c'era stata la rivolta, poi a gennaio gran confusione, dopodiché ci saremmo aspettati, o almeno all'inizio ci eravamo anche sentiti noi sindaco, e ci aveva detto guardi qualcosa si sta muovendo, iniziano ad arrivare dei mezzi che trasportano via le persone, le portano in altri luoghi, speriamo di respirare. Evidentemente c'è qualche meccanismo che non ha funzionato qua. Guardi, gli cito due casi. In quell'occasione 100 persone che sono state trasferite a Bologna, dunque ancora una volta il territorio veneziano non c'è la logica dell'accoglienza, questo territorio ragiona così e non si può fare assolutamente nulla. Il prefetto aveva cercato di aprire un'altra sede presso una città di Porto Gruaro, ci sono state le lamentele di tutti i politici che fanno riferimento a quella zona di governo e di opposizione. Vede, di fatto ci vuole coraggio e competenza per affrontare un problema così complesso e purtroppo l'incompetenza non aiuta. La ringrazio, grazie Alberto Panfilio, sindaco di Cona, e magari nei prossimi giorni torneremo anche a Bagnoli di Sopra, che è il comune praticamente accanto, dove allo stesso modo, cioè sostanzialmente nella stessa situazione, i numeri sono inferiori, però più o meno nella stessa situazione. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e andremo ad una storia un po' più leggera, un maxi schermo per Umarell, a tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Il Nobel va all'americano Thaler, tra i pionieri dell'economia comportamentale. Aveva combattuto in Siria, l'uomo arrestato ieri a Ferrara, era fratello dell'attentatore di Marsiglia. Collisione tra una nave militare e un barcone di migranti partito dalla Tunisia, almeno 8 vittime. Il va sciopero contro il piano che prevede 4.000 esuberi, è in corso un incontro al Ministero, la Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, è lunedì, tocca iniziare la settimana, iniziamola anche, e magari la prendiamo come tradizione, anche con un po' di leggerezza, e lo facciamo andando a rapallo oggi. L'antropologia del pensionato da cantiere ormai la conoscete più o meno tutti, mani dietro la schiena, ad osservare che cosa fanno gli operai, chissà se è in ascolto in questo momento l'uomo che per primo li ha analizzati, il nostro amico Danilo Masotti con il suo libro Umarell. Ebbene, il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che è in linea con noi, buongiorno sindaco, ha addirittura piazzato dei maxi schermi per consentire a tutti di vedere i cantieri. Buongiorno, buongiorno, grazie per questa opportunità. Sì, sì. Stiamo realizzando insieme alla società che ha vinto l'appalto, che fa i cantieri, la possibilità sul nostro territorio, nella nostra cittadina in centro, di seguire i cantieri con una webcam, sempre collegata H24. C'è stata una fortissima risposta da parte sia dei cittadini, pensionati. Sì, tantissimo, ma anche tantissimo, dei commercianti, certo, che vogliono i maxi schermi vicino ai loro locali. Per cosa? Per far vedere a tutti come vanno i lavori? Per far vedere questa voglia di cantiere, questa voglia di passare da una cosa utile come sono i cantieri al pensionato che fa il commento, vederli proprio in diretta. In genovese, quando dicono questa amministrazione qua non ha fatto niente, io invece volevo far vedere che stavamo lavorando tanto. È anche un discorso di trasparenza e di compartecipazione cittadina, ecco. Sì, qua qualcuno ci scrive, possono anche servire per controllare il corretto svolgimento dei cantieri. Anche il corretto svolgimento, cioè che le cose vengano fatte come, no? come Dio comanda, come devono essere fatte, sì. certo così, perché vede, da noi poi quei giorni che ci sono i cantieri diventano tutti ingegneri, idraulici, di tutto e di più, onde evitare, abbiamo detto bene, su un discorso di trasparenza mettiamo nelle posizioni strategiche della città. Siamo riusciti a sbloccare il patto di stabilità, facciamo molte opere pubbliche, puntiamo tutto su quello e vogliamo farle vedere, ecco. Sì. Bene, sindaco, che le devo dire? È il paradiso degli Umarella, Rapallo, insomma. Sì, ma faccio anche un'altra iniziativa, sempre quella. Faccio ogni 15 giorni una lista, no? E porto il sindaco insieme all'assessore competente, andiamo a fare una visita guidata nei cantieri. Nei cantieri, sempre con le mani dietro la schiena e dando indicazioni precise agli operai. la ringrazio, grazie a Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo. A chiudere, oggi ricorrono i 50 anni dalla morte di Che Guevara, si prepara a Milano una grande mostra, sentiamo. A 50 anni dalla morte in Bolivia nel villaggio di La Higuera, dove il 9 ottobre del 1967, dopo essere stato catturato coi compagni di guerriglia, venne ucciso a soli 39 anni, Milano si appresta ad ospitare una mostra dedicata al leggendario rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. L'esposizione, che sarà allestita dal 6 dicembre prossimo al 1 aprile del 2018 alla Fabbrica del Vapore, si intitola Che Guevara Tui Todos e vuole raccontare più che il mito l'uomo, per farlo conoscere ai giovani e mantenere tenerne vivo il ricordo. Una narrazione che passa attraverso il racconto del contesto geopolitico, della sua biografia e che vuole scavare gli aspetti più intimi dell'uomo, analizzando anche le sue relazioni con la famiglia e con gli amici, i suoi ideali e le sue paure. È stato un complesso lavoro di selezione durato 2 anni, quello necessario per realizzare questa mostra promossa da Simmetrico Cultura, Alma e Centro Studi Che Guevara e curata anche da uno dei figli del Che, Camilo Guevara. La direzione artistica è di Daniele Zambelli, che ci ha spiegato la scelta del titolo Tui Todos. Tui Todos è una poesia che lui dedica alla moglie prima della partenza in Bolivia. È una dichiarazione d'amore alla moglie, ma anche alla vita e all'impegno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è America 24, ci risentiamo tra un attimo per i saluti.